E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana che devo dire sul fronte dei mercati si è chiusa e si sta chiudendo leggermente positiva in Europa, un po' più positiva a Milano, più 1%, l'Europa guadagna lo 0,3% a Parigi e anche a Francoforte, lo 0,2% su Londra, l'America più 0,4%, euro su dollaro 1,23,76. Tra i titoli oggi bene soprattutto i bancari, questa è una cosa di cui adesso parleremo, attenzione, ci si avvicina alle tre streghe, ma insomma a Milano, la Popolare di Milano guadagna il 6,16%, il Monte dei Paschi il 4,85%, Mediobanca il 4,21%, il Banco Popolare guadagna il 4%, Intesa il 3,80%, Unipol più 3,70%, Ubibanca più 3,1%, Unicredit più 3%, cioè i migliori titoli, i primi 7-8 migliori titoli sono tutti bancari oggi. Dicevo, cosa apparentemente singolare, perché ieri dalla riunione del vertice dei presidenti dell'Unione Europea è emersa, come avete letto su molti giornali oggi, l'ipotesi di arrivare intanto di tassare le banche, fermo restando che ogni Stato deciderà come e con che intensità, e poi anche transazioni finanziarie. La risposta mi sembra quantomeno ignorare la proposta europea, ma ne parleremo. Bene anche Fiat, più 2,1, Saipem più 2%, Bulgari più 1,70, CIR più 1,5 come Mediolanum e Campari l'1,1 e il rialzo di ST Microelectronics l'1%, quello di Buzzi Unicem. Fronte opposto, Ansaldo STS meno 2,2, Atlantia meno 1,4, Generali meno 0,90, Mediaset perde lo 0,70, Eni perde mezzo punto percentuale come Autogrill ed Enel, Telecom Italia meno 0,2%, l'euro l'abbiamo detto 1,23,70. Di cosa ci occuperemo oggi? Beh, della proposta arrivata dall'Europa, della lettera che Barack Obama ha scritto indirizzandola ai G20 in vista del prossimo vertice che si terrà a Toronto 26-27 giugno se non ricordo male, dicendo occorre avere maggiore trasparenza sui mercati, sostenere la crescita, una lettera di intenti priva però diciamo di misure e di elementi ancora più tecnici, forse non ha nemmeno quello il luogo, la sede per avanzare le misure. E parleremo anche dell'articolo 41, fermo restando che oggi non è successo niente in Consiglio dei Ministri sull'articolo 41, quello della Costituzione sulla l'iniziativa d'impresa che il governo vorrebbe modificare per rendere più facile la creazione di un'impresa, più facile il clima in cui opera l'impresa, molti dicono, anche molti industriali, attenzione, non serve modificare l'articolo 41 per snellire il percorso burocratico, certo che si può modificare ma si possono già varare altre misure nel frattempo. Dicevo 349-238-6666 per i vostri sms, nella seconda ora parleremo delle agenzie di rating perché avremo il nostro ospite il numero uno di Standard & Poor's Italia. Dopo tutte le accuse che hanno riguardato il modo, il comportamento, anche il timing, cioè il tempo con cui le agenzie di rating si sono messe ad abbassare il voto ai vari paesi, Spagna, Portogallo, Grecia soprattutto, c'è chi le ha accusate di fomentare la speculazione, di gettare benzina sul fuoco, addirittura si è arrivati a dire che erano in conflitto di interesse, visti i loro azionisti, e l'Europa politica, Sarkozy, la Merkel e non solo, hanno avanzato l'ipotesi di un'agenzia di rating europea, per cui che dia i voti ai debiti dei paesi senza dipendere troppo da queste agenzie che sono completamente americane. Ecco, di questo parleremo nella seconda ora del programma, perché il tema c'è tutto e sappiamo che se domani arrivasse un voto negativo sul debito di un paese, soprattutto di quelli più fragili, questo avrebbe ripercussioni immediate sulle borse e anche pesanti. Le altre notizie in breve. Partiamo. Partiamo da un record sui mercati, è il record dell'oro, a $1,260 l'oncia a Londra, record storico sia a Londra che a New York, a significare che insomma per ora conviene secondo molti investitori comprare oro, sono contratti spesso future, ma insomma indicano quello che è la voglia di molti investitori di avere i cosiddetti beni rifugio. Il petrolio invece è in calo, ma è sempre alto, è $76 al barile. In tema di energia, oggi Eni e Gazprom hanno sottoscritto, Gazprom è il colosso russo del gas, hanno sottoscritto un memorandum of understanding, una lettera di intenti che consentirà l'ingresso di EDF, colosso francese dell'elettricità, nella società appunto costituita, che si chiama South Stream, per costruire il gasdotto che appunto partirà dalla Russia. La società francese acquisirà una partecipazione nella joint venture che attualmente è solo italo-russa e che appunto servirà a costruire questo gasdotto che, attraversando il Mar Nero, porterà il gas in Europa. L'articolo 41, quindi veniamo all'Italia. Questa mattina la riunione del Consiglio dei Ministri per esaminare i possibili contenuti del disegno di legge che dovrebbe riformare l'articolo 41 per liberalizzare maggiormente l'attività di impresa. Attenzione, lo dico a chi scrive. Il disegno di legge dovrebbe avere delle norme che riguardano semplicemente leggi normali per liberalizzare l'attività di impresa e poi avere anche delle modifiche sull'articolo 41. Che cosa recita l'articolo 41 attualmente? Dice: l'iniziativa economica privata è libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo dannoso alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Il comma o i commi che si vorrebbero aggiungere: la Repubblica promuove il valore della responsabilità personale in materia di attività economica non finanziaria. Gli interventi dei regolatori dello Stato, delle regioni, degli enti locali che riguardano le attività economiche e sociali si informano a criteri ex post. Qua si apre il campo dell'interpretazione. In sostanza si dice che lo Stato, l'ente locale, la regione interviene dopo, non prima, quindi cambia l'approccio, non è lo Stato che prima decide l'ambito dell'attività di impresa, ma casomai interviene dopo per regolarla o ricondurla laddove dovesse trovare dei contrasti con quello che è l'interesse del bene pubblico. Però di questo, della libertà del DDL, libertà d'impresa, del disegno di legge libertà d'impresa, come ormai si chiama in gergo, ha parlato il ministro Giulio Tremonti, lo ha fatto al microfono il nostro Vincenzo Miglietta a margine di una conferenza stampa del Tesoro, e ha così commentato l'avvio nel Consiglio dei Ministri delle proposte per arrivare a questo disegno di legge. Un percorso, va bene. Io sono molto contento e molto contento. È un lavoro molto serio che inizia oggi. È iniziato con l'idea di costituire un gruppo di ministri, un gruppo di uffici che nel tempo più breve possibile definirà la legge ordinaria e la proposta di legge costituzionale. E su questo tema è intervenuta oggi anche la Presidente di Confindustria Marcegaglia, che ha detto insomma è un fatto positivo ridurre la burocrazia, le proposte vanno bene, nel frattempo si possono semplificare le norme e ridurre il costo, il carico burocratico anche senza riforma costituzionale, anche semplicemente con la legge ordinaria. Vediamo di buon occhio questo meccanismo di revisione proprio di alcuni principi nella nostra Costituzione, che è una Costituzione ancora certamente molto valida, ma che dice poco sull'impresa. Allora, diciamo, i problemi erano di altro tipo e quindi forse un ripensamento alla luce anche dell'economia globale può essere utile. Ma ribadisco, la nostra opinione è che intanto dobbiamo andare avanti su quello che si può fare anche a Costituzione invariata. Alcuni di voi mi fanno notare che oggi abbiamo iniziato con troppi termini inglesi: rating, timing, understanding. Chiedo venia, di solito non è una nostra caratteristica, anzi cerchiamo di tradurre. Faremo maggiore attenzione nel corso della puntata. Andiamo avanti con le notizie in breve. Allora, il federalismo fiscale, secondo il governatore della Lombardia Formigoni, secondo altri osservatori, secondo il presidente delle regioni Errani, è a rischio con questa manovra finanziaria. Non sappiamo se sia veramente a rischio oppure no. Sicuramente intanto c'è il ministro in attesa, dico, del federalismo fiscale vero e proprio. Già c'è il ministro, è Aldo Brancher, che attualmente era sottosegretario alle riforme, è stato nominato oggi ministro senza portafoglio con delega per l'attuazione del federalismo. E il ministro dell'economia Giulio Tremonti, a chi gli chiedeva insomma, c'è un nuovo ministero, ci saranno costi in più in questo periodo, ha detto no, è un ministero low cost, molto low cost. Oddio, un altro inglesismo, un ministero a basso costo, molto a basso costo. E poi alcuni elementi sulla manovra. Alle province si potrebbe assegnare il bollo auto. Lo ha detto oggi il sottosegretario all'interno Michelino Davico in un convegno promosso dall'UPI della provincia di Treviso, appunto a Treviso, rispondendo alla domanda su quali tributi possono essere assegnati agli enti locali. Io direi però, forse inviterei anche il governo in questi casi prima a fare la norma e poi a raccontarcela, perché sennò diventa difficile seguire tutte le varie proposte in tema di federalismo fiscale. Bollo auto, se fa parte dell'impianto di federalismo fiscale, benissimo, come dotazione tributaria alle province, verrà tolto da qualche altra parte, ma insomma, più che le ipotesi, sono momenti di ragionare sulla sostanza. Ed è tornato a dire che il federalismo fiscale non ha copertura finanziaria il governatore lombardo Roberto Formigoni, che ha detto, insomma, voglio dal governo una versione ufficiale, perché il ministro Elio Vito ha sostenuto martedì scorso alla Camera che le norme sul federalismo fiscale hanno un valore puramente programmatorio, cioè sono senza copertura finanziaria. Allora Formigoni ha detto, se le affermazioni del ministro Vito sono vere e non riusciamo nemmeno a ipotizzare il contrario, è confermata la previsione pessimistica che vado avanzando da quando ho letto la manovra, e cioè che il federalismo fiscale in questo paese non ha più basi. Dovrebbero spiegarlo anche a Brancheri, insomma, si mettessero d'accordo, perché da un lato c'è il ministro, dall'altro sembra che il federalismo fiscale non abbia copertura finanziaria. Staremo a vedere. Intanto qualche dato serio, economico e di sostanza: il fatturato della nostra industria ad aprile è andato molto bene, come immaginabile anche visto il dato sulla produzione industriale, più 6,4% rispetto all'aprile del 2009, è il massimo dal 2008, dal giugno del 2008 come balzo. Molto bene, molto bene gli ordinativi alle imprese, il riferimento è sempre aprile, più 20,6%, questo è veramente un dato forte. E, tra l'altro, con un rialzo di quasi 5% negli ordinativi alle imprese italiane mese su mese, cioè aprile su marzo, è il dato più forte, la crescita più forte negli ordinativi alle imprese dall'agosto del 2006, quindi ben prima della crisi finanziaria e poi economica. Ed è importante perché gli ordinativi alle imprese poi significano produzione e fatturato, sono in qualche modo anticipatori della tendenza. Bene anche fatturato, più 4% per quello che riguarda l'industria dell'auto, male invece gli ordinativi nell'industria dell'auto ad aprile, meno 13%. E comunque la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, nel commentare il dato su questi ordinativi, ha detto che è un dato buono, oltretutto riguarda soprattutto le esportazioni, ma anche in una fetta considerevole il mercato interno, cioè i consumi interni, dove sembra che ci sia un po' di risveglio. Qualche notizia che riguarda sempre l'Italia, ma casi aziendali. I lavoratori dello stabilimento Indesit di Brembate Sopra a Bergamo hanno bloccato dalla mattinata il traffico lungo una strada statale tra Bergamo e Lecco. Ieri, infatti, l'azienda ha comunicato ai sindacati durante il primo incontro ha confermato, scusatemi, la volontà di chiudere la fabbrica dove lavorano 430 dipendenti. Però anche una buona notizia, perché la storica azienda del cioccolato alle porte di Torino, la Streglio di None, è fallita a maggio, adesso è salva. C'è un imprenditore piemontese, si chiama Antonio Livio Costa Magna, è il nuovo proprietario, ha investito circa 2 milioni di euro per acquisirla, ha presentato un piano industriale e soprattutto ha salvato i 50 dipendenti. Va bene, partiamo allora con il primo tema, le proposte che arrivano dall'Europa, la lettera di Barack Obama. Insomma, sembrerebbe che al prossimo G20 di Toronto si riesca a discutere anche di una tassa sulle transazioni finanziarie, mentre i governi europei dicono anche le banche devono contribuire al risanamento dei conti pubblici, visto che questi conti pubblici in buona parte, in molti paesi, si sono deteriorati per salvare le banche, per la crisi finanziaria che anche le banche hanno avallato con certi strumenti. Faccio un ragionamento che c'è di fondo, e quindi la tassa sulle banche che le borse bellamente ignorano, ma noi di questo vorremmo ragionare. Sì, lo so che il bollo auto doveva essere eliminato, diciamo, da una parte per entrare sulle province, non lo so, è una dichiarazione di un sottosegretario, lo dico a chi scrive, con massimo rispetto per il sottosegretario, ma va presa come tale, è un'ipotesi di lavoro. Io invito sempre a ragionare sui fatti, non sulle ipotesi, in questo momento soprattutto. Lo dico a chi scrive al 349-238-6666, ma vediamo che cosa è successo oggi sul fronte europeo, perché mentre lo Stato francese ha comunicato di avere già recuperato 1 miliardo di euro dagli evasori fiscali scoperti grazie alla lista di Hervé Falciani, quella lista che anche noi abbiamo acquisito, vediamo quanto recupereremo noi. 1 miliardo di euro è tanto, già adesso. I correntisti francesi erano 8.000, quelli italiani sono 7.000, diciamo che se tanto mi dà tanto, anche noi dovremmo recuperare almeno 1 miliardo, 900 milioni. Non penso che gli italiani quanto evasione siano da meno dei francesi. Intanto la Svizzera, lo si è saputo ieri da Rai, gli Stati Uniti, i dati di migliaia di clienti dell'UBS, il Parlamento svizzero ha ceduto e ha definitivamente approvato l'accordo raggiunto l'anno fa tra Svizzera e Stati Uniti. Ci sono 4.450 conti correnti di cittadini americani in cui l'America sospetta fortemente che si tratti di proventi dell'evasione fiscale, e in America non si scherza quando si evade. E sempre dall'America, appunto, Barack Obama ha detto la priorità è rafforzare l'economia, ha scritto una lettera ai G20. E su questo devo dire che siamo un po' nel campo dell'ovvio, non ce ne abbia il presidente americano. L'impegno sul debito, ma senza rallentare la crescita, e anche qui l'abbiamo già sentita. I piani devono essere credibili e flessibili. Impariamo dagli errori del passato. Un altro sforzo di retorica non indifferente. Forse la notizia più forte è quando Obama dice: bene, la trasparenza delle banche servirà alla volatilità dei mercati, farà ridurre i costi del finanziamento. Andremo avanti con la riforma finanziaria, della finanza. E poi il settore della finanza deve pagare per i danni creati. A Toronto dobbiamo ribadire il nostro impegno per un contesto comune per le riforme, sempre Barack Obama, e il settore finanziario deve contribuire in modo giusto e sostanziale, pagando per i fardelli creati, così da tutelare i contribuenti e ridurre i rischi per le nostre economie. Salvatore Bragantini, editorialista del Corriere della Sera, ex commissario Consob, buonasera. Buonasera a voi. Allora, ce la faranno secondo lei G20 ad uscire con un testo che, insomma, metta d'accordo tutti e vada a far pagare, nel massimo, diciamo, rispetto del termine, come ha detto Barack Obama, per far pagare il settore finanziario per i fardelli creati e la crisi generata? Ma guardi, Obama mi sembra che stia assumendo dei compiti sempre più da Superman, io spero che ci riesca. Credo che il potere di lobbying dell'industria bancaria americana sia enorme, soprattutto dell'investment banking. Pagare per i danni creati sarebbe una bella meta. Io mi accontenterei se si creassero le condizioni per evitare altri danni ancora maggiori in futuro, E questo vuol dire, per esempio, lavorare nella direzione della riforma che è in questo momento all'attenzione del Congresso e del Senato americano. Mm. Allora, mentre vedo un paio di messaggi insomma, che mi chiedono di dimettermi, un altro dice che sono un comunista, forse perché abbiamo toccato il tema dell'evasione fiscale. No, non penso proprio. Il tema dell'evasione fiscale, posso dire una cosa? Così mi devo dimettere veramente, va bene Bragantini? No, scherzo. Mi dimetto io, quando passo il telefono mi dimetto. È comodo così, prego. Lei ha detto che i francesi hanno recuperato da 8.000 nomi 1 miliardo, sì. E noi da 7.000 nomi potremmo recuperare quasi 1 miliardo. Sì. Io spero di sì, io spero che questi signori non abbiano fatto lo scudo, perché se hanno fatto lo scudo ci faranno marameo o braccetto, come preferisce. Sì, lì è ancora argomento di dibattito questo. Certo che se uno ha scudato, obiettivamente dovrebbe essere al riparo dalle liste, anche dalla lista, da qualsiasi lista. Dalla lista. Falciani, va bene, questo è sul tema dell'evasione, l'evasione ne parliamo spesso, per cui non ho nessun problema su questo, a mio avviso resta, e anche in manovra finanziaria è prevista una fetta della manovra come aumento della lotta all'evasione, il problema è capire se arriverà o no, ma vedo e va detto che in finanziaria si sono state introdotte delle norme, in alcuni casi anche riprendendo norme che aveva fatto il precedente governo con allora il sottosegretario Visco, in cui per esempio sul contanti che si possono usare, sull'assegno trasferibile, su alcune cose che dovrebbero rendere più difficile l'evasione altissima, patologica in questo paese, sopra ogni media europea. Ma stiamo sul punto, Bragantini, se Obama ha un compito improbo, cosa ne pensa dell'accordo raggiunto ieri in Europa per tassare le banche? Soprattutto lei come se lo spiega che oggi tutte le banche crescono in Europa, ma tanto anche? Francamente non me lo spiego se non con l'idea che alla fine questa cosa tramonterà, però ripeto, io penso che la cosa importante sia quella di evitare che si creino di nuovo i danni che sono stati creati nel passato. Questo vuol dire evitare che le banche scommettano con i soldi dei depositi dei clienti che lo Stato garantisce, quindi in ultima analisi con i soldi dello Stato. Se qualcuno deve scommettere lo facciano altri, non le banche. Io penso che questa sia la cosa più importante. Poi se nella difficoltà degli stati qualche lira viene dalle banche, questo può anche andare bene, ma bisogna domandarsi perché le banche e non altri settori. Quindi lei dice più che la tassa sulle banche, che ha un sapore di emergenza per le finanze pubbliche, anche un po' di così atteggiamento politico, adesso puniamo le banche, sarebbe importante avere delle regole che obbligassero appunto le banche ad assumersi maggiori rischi e maggiori responsabilità, mi scusi, quando si assumono i rischi che si sono assunte. Vedo che alcuni scrivono che forse le banche italiane crescono perché a luglio usciranno gli stress test, cioè un'altra parola in inglese, però non so cosa farci oggi, ossia quei test fatti, quelle simulazioni di crack, chiamiamole così, fatte sulle banche per vedere com'è quanto fino hanno in cascina, come sono i loro crediti, quanti sono esigibili, tutto insieme di cose. A luglio usciranno i risultati sulle prime 25 banche europee, alcuni ascoltatori ipotizzano che magari qualcuno sappia già il risultato e allora le banche italiane vengono premiate, non lo so. Vorrei capire, quando lei parla di regole, Bragantini, a che cosa si riferisce, perché le tasse sulle banche è una misura una tantum, le regole su che? Le regole sono che, come ha detto il governatore della Banca d'Inghilterra, King, è assurdo un sistema nel quale qualcuno può usare i soldi dello Stato per fare delle scommesse, perché il proprietary trading, cioè il comprare titoli per il conto della banca, significa fare delle scommesse sull'andamento futuro, sulla direzione di questi titoli, con i soldi dello Stato, perché in ultima analisi ha la garanzia sui depositi da parte dello Stato. Io mi riferisco fondamentalmente a questo, che è un pezzo della riforma americana, come voi sapete. Ne arrivano molti messaggi, sono d'accordissimo con chi scrive se si abbassassero le tasse forse sarebbe più facile o ci sarebbe meno evasione. Il problema è che in questo momento, come ha ricordato anche il governo, ci mancherebbe, il governatore della Banca d'Italia, la Presidente di Confindustria, finché tutto il carico fiscale è sulle spalle di pochi, o perlomeno non di tutti, è chiaro che poi hai un prelievo fiscale effettivo che è vicino al 53%, allora le tasse si possono abbassare se si iniziano a pagare un po' tutti, questa sembra retorica ma così non è. Visto che parliamo di tasse, sentiamo il giudizio del ministro Giulio Tremonti sulla tassa sulle banche. Ieri la decisione è stata adottata con vastissimo consenso. Il nostro interesse è a maggiori dettagli e, se possibile, a un certo grado di flessibilità. Non tutte le realtà sono uguali, ogni paese ha caratteristiche strutturali diverse. Se possibile, noi vorremmo che fosse sviluppata una discussione flessibile paese per paese. Così il ministro Monti. Salvatore Bragantini, adesso arriviamo anche alla sua risposta sulla tassa invece sulle transazioni finanziarie a livello internazionale. Vorrei però far ascoltare, come promesso, anche il giudizio, che è un giudizio negativo da parte della presidente di Confindustria Emma Marcegaglia sulla proposta di tassare le banche. Ma anche noi non siamo molto d'accordo, perché è chiaro che poi è come dire: ci sarà un'altra crisi, prepariamo già i soldi per poterla pagare, e poi questo è chiaro che è molto facile che si trasformi in maggiori costi e commissioni per le imprese e per i risparmiatori. Noi preferiamo una logica invece di nuove regole, di regolatori attenti, e ci sembrerebbe una soluzione molto migliore. Insomma, le tasse poi alla fine dalle banche passano sempre alle imprese e ai risparmiatori. Eccola lì, eccolo qui il motivo forse per cui anche i titoli bancari ignorano questa proposta di tasse, perché tanto Salvatore Bragantini, il ragionamento molto esplicito che ha fatto la presidente di Confindustria: attenzione, se tassate le banche ci sta tutta che poi sta roba si ripercuota sul costo dei conti correnti, sul costo dei crediti, sul costo per concedere crediti alle imprese, un po' come quando si ipotizzò di tassare le compagnie petrolifere e ci fu chi disse: attenzione, poi ce lo ritroviamo nella pompa della benzina questa tassa in più. Lei è d'accordo o no? C'è questo rischio? Beh, sostanzialmente sì. Io però penso che la dichiarazione di Tremonti che voi avete prima mandato in onda mostri una grande, diciamo, prudenza da parte del governo italiano. Io non credo che questa cosa andrà molto lontano, perché ci sono molte ragioni nell'argomentazione della Marcegaglia. A un certo punto l'importante è evitare altre cose del genere, perché le finanze degli stati non se le potrebbero permettere un'altra crisi. Questa è la cosa più importante, piuttosto che non caricare di tasse un settore che poi dopo le scaricherebbe sugli altri. E tra l'altro la cosa è più facile, dati alcuni aspetti inerentemente oligopolistici del settore finanziario in Italia. Ricordiamoci che non ci sono solo le banche, ci sono anche le assicurazioni. Sì, e anche i fondi, devo dire, sono quasi tutti di pertinenza del mondo bancario, però è vero che c'è anche il mondo assicurativo, e abbiamo visto la polemica recentemente tra l'autority che le sorveglia e il mondo assicurativo, per esempio, su questi costi dell'assicurazione delle RC auto in Italia, incredibili. Ma non apriamo ulteriormente il tema. Adesso faccio un indovinello: si vince una penna di Radio 24. Secondo voi, come può aver accolto questa proposta di tassare le banche un banchiere? 3-4 secondi per rispondere. Sentiamo allora la risposta e come ha accolto questa proposta Alessandro Profumo, numero uno di Unicredito, al microfono il nostro Nicola Accardo. Intanto, diciamo, il sistema bancario, se andiamo in Italia, abbiamo il carico fiscale più alto tra tutte le varie industrie. Dopodiché, se mi si dice che devo pagare una tassa perché abbiamo ricevuto dei fondi pubblici, noi come Unicredito ad esempio non ne abbiamo ricevuti per niente, quindi mi sembra profondamente unfair. Dopodiché qua ci viene richiesto di avere più capitale, e fondamentalmente il capitale avviene da ritenzione di utili. Come sappiamo oggi i risultati delle banche sono particolarmente bassi, aggiungiamo un'ulteriore tassa e poi c'è qualcosa che non quadra. E ha vinto un ascoltatore, ha indovinato. I banchieri hanno accolto male questa proposta di avere più tasse sulle banche. Certo che nemmeno Profumo oggi ci aiuta, perché si dice unfair, mi mette un altro inglesismo tra quelli che ho già messo io, è scorretta come proposta. Allora, Salvatore Bragantini, ultima domanda: la tassa che si discuterà invece sulle transazioni finanziarie, una specie di Tobin Tax, non ho ben capito cosa dovrebbe essere, ma insomma, la convince o no? Ma guardi, se fosse di ammontare minimo, tipo un centesimo o due centesimi, tale da essere totalmente irrilevante per chiunque operi, diciamo, sul mercato in condizioni normali, e da colpire invece le operazioni di di trading ad altissima frequenza, quelle di migliaia di operazioni fatte solo per battere di un centesimo l'indice o cose di questo genere, secondo me in questo caso potrebbe avere senso. Non è un caso che questa Tobin Tax o qualcosa di simile sia stata ignorata per anni e venga alla ribalta adesso, quando ci sono una quantità enorme di operazioni che sono fatte dai computer in tempo reale per diciamo prendere minime differenze. La Tobin Tax inciderebbe su tutte le operazioni, però sulle altre in maniera rilevante, su queste in maniera rilevante. Sì, sappiamo che la speculazione ormai ha raggiunto livelli tali a livello di supporto tecnico per cui si riesce a guadagnare su operazioni che sono al secondo, in alcuni casi al millesimo di secondo, cioè tu vai a fare arbitraggio o comunque trading, oddio mio, compravendita a livello infinitesimale di tempo, e quindi su questi piccolissimi guadagni, però moltiplicati per 10, 20, 30 mila, ci costruisce anche grossi introiti. Grazie a Salvatore Bragantini, ex commissario Consob, il giornalista del Corriere della Sera, in collegamento con noi. Grazie, arrivederci. Giudizio positivo invece da parte di Alessandro Profumo sulla pubblicazione che arriverà a luglio degli stress test, cioè di questi test per verificare la solidità delle banche. Buona accoglienza da parte di Profumo. Io penso che per i paesi con banche forti come l'Italia sia assolutamente una buona cosa, dopodiché è una buona cosa per tutti, no? Però diciamo, certamente per l'Italia è qualcosa di importante. E allora, Ceo Condina, buonasera. Buonasera a tutti. Allegria. Grazie, le banche state bene? Come mai sono salite le banche, nonostante la tassa annunciata in Europa? Beh, diciamo complici diversi fattori, sia le parole di ottimismo pronunciate dal nostro governatore Mario Draghi sulla solidità del nostro sistema bancario, ma anche e soprattutto i nostri bancari si sono mossi sulla scia di quelli spagnoli, galvanizzati a loro volta dal buon andamento ieri delle aste. Ricordiamolo che la BBVA, la banca basca spagnola, in seguito ai stress test è risultata una delle migliori in Europa, e questo insomma ha convinto gli investitori che forse è il peggio per le banche europee, dunque anche italiane, in passato. Beh, ce lo auguriamo assolutamente. Il miglior titolo oltre a quelli bancari è Saipem, più 2,1%, che è in controtendenza rispetto ad Eni. Eni oggi infatti perde lo 0,80%, scende a 16 euro per azione. Saipem, qui c'è notizia di mercato. Sì, Saipem ha preso una commessa molto grossa, 900 milioni di dollari in Kuwait per costruire una nuova stazione di pompaggio del gas. E poi c'è anche l'overweight di Morgan Stanley, una promozione da parte di questa banca d'affari che vede il titolo a 35 euro, oggi ne quota 27. Quindi. Allora, abbiamo una politica che non vogliamo più report, ma non ce l'ho sicuramente con te. Poi oggi mi accusano anche di usare troppi inglesismi, abbiamo fatto due danni con una sola cosa. Comunque, Morgan Stanley dice di sovrappesare. Allora, in pregilo invece tra i titoli appunto non legati al settore bancario, ma anche Fiat bene più 1,90, Bulgari più 1,80%, Mediolanum più 1,4, Campari più 1,1, CIR più 1%, segue l'andamento anche Italcementi più 0,80 come Geox e A2A, Prismi al mezzo punto percentuale di rialzo. Dicevo di Impregilo da un lato, e ha ridotto un po' i guadagni. Ieri è stata una sentenza della Cassazione importante per Impregilo, prego. Sì, ha dissequestrato 270 milioni di euro che erano stati appunto bloccati a seguito dell'inchiesta sullo smaltimento dei rifiuti in Campania, dove Impregilo è appunto attiva in questo settore. Sono stati sbloccati, stamattina il titolo guadagnava ancora, era arrivato a guadagnare l'1,7%, in calo. Poi complice già ieri era salito, insomma qualcuno ha preferito realizzare. Ancora, tra i titoli che vanno particolarmente bene, noi abbiamo citato anche Unipol, che in senso stretto e anche in senso lato non è un bancario, in maniera così stretta, però più 3,41%. Sì, qui diciamo ci sono motivi prevalentemente tecnici che sono legati al fatto che c'è un aumento di capitale da 500 milioni che partirà a breve, il titolo, le quotazioni non sono ancora adeguate esattamente a quello che sarà poi il prezzo dell'aumento di capitale, e quindi gli operatori specializzati giocano sulle opzioni legate a questo aumento. Le tre streghe che fine hanno fatto? Non stiamo parlando del Macbeth, ripeto, ma della congiuntura per cui ci sono tutto un insieme di scadenze tecniche che di solito porta anche qualche penalizzazione sui mercati. Sì, scadevano insomma, i future su borsa, azioni, opzioni, però oggi ci hanno risparmiato, almeno a Piazza Affari, perché poi le altre borse, come dicevi tu, hanno chiuso praticamente in parità. Ancora per quello che riguarda i titoli, abbiamo visto qualche realizzo, ossia vendite dopo le crescite su Generali, Ansaldo, Ansaldo STS appunto -2,2%, tra i mi volete sapere i migliori e i peggiori, ve li do subito. Dunque, gli ascensori SPA più 24,40%, Finarte Casa d'Aste più 15,3%, AF più 12,7%, Casa Damiani più 10,70%, De Longhi più 10,1%, Seat Pagenziale sul risparmio più 9,45%, Danone più 7,87%, titoli molto molto sottili, chiedo scusa per l'ignoranza, non conoscevo il titolo legato agli ascensori. Chi va male invece Green Vision -5,60, Sabaf -4,70, anche qui molto sottili, Sanofi -4,11, Grandi Fiandre -3,88%, Credito Artigiano -3%, Mediaset oggi ha leggermente sofferto, c'è un giudizio, ma appunto nella linea che non diamo i giudizi delle grandi banche d'affari, non diamo neanche quello su Mediaset. Ciao Condina, grazie e buon fine settimana a te e a tutti i colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore. Ciao. E adesso tocchiamo il tema un po' più generale, ma di estrema attualità, di quello che è insomma, il giudizio delle agenzie di rating, ossia queste agenzie che danno i voti, oltre che ai privati, anche agli stati, e che a marzo, tra marzo e aprile, sono finite nell'occhio del ciclone. Perché, si è detto anche senza mezzi termini, le agenzie di rating, abbassando il voto ai vari paesi, Grecia e Spagna su tutte, commentando questo voto con prospettive negative, hanno di fatto dato una spinta forte alla speculazione, l'hanno agevolata, indirettamente o direttamente ne sono state partecipi, e lì tutta la polemica sull'agenzia di rating europea e anche sull'eventuale conflitto di interessi tra chi dà il voto e gli azionisti di queste agenzie di rating, che potrebbe avere un interesse appunto nel in qualche modo fomentare o creare appunto tensioni e quindi ambiente speculativo sui mercati. Detto questo, vi ricordo anche che si fosse messo in collegamento che i mercati oggi hanno vissuto una giornata abbastanza grigia, con indici più o meno invariati, come già avvenuto anche ieri. L'euro si è mantenuto a quota 1,2370. E allora parliamo, adesso che la polemica è un po' più scemata, si potrà anche ragionare del ruolo, compito, conflitto di interessi delle agenzie di rating e anche se sia vero o no che funzionano un po' come certi untori durante la peste speculativa. Come dimenticare, infatti, no? A fine aprile Standard & Poor's, una delle tre principali agenzie di rating al mondo, le altre si chiamano Moody's e Fitch, Standard & Poor's ha declassato di tre livelli in un sol botto, in un sol colpo, il debito pubblico della Grecia, portandolo a livello di junk bond, spazzatura. E da lì poi tutte le polemiche, i mercati che abbattevano l'euro e abbattevano anche le borse europee. Sempre a fine aprile, sempre Standard & Poor's ha tagliato il voto anche sul debito del Portogallo con una prospettiva negativa da A2 ad A+ A1, ma al di là delle sigle, insomma, questo è stato il messaggio. E poi sempre a fine aprile la Spagna declassata, la Spagna ha ancora un livello di debito di voto buono, da AA+ a AA. E su questo ricorderete le polemiche. Allora ringrazio per aver accettato questa intervista il numero uno di Standard & Poor's Italia, l'amministratore delegato Maria Pierdicchi. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Prima di arrivare alla parte più così delle accuse che avete ricevuto, vorrei intanto, visto che anche oggi ne abbiamo parlato di manovre europee e quant'altro, vorrei che lei ci desse anche il giudizio sulla manovra italiana, che appunto in questo momento è in discussione, ce ne stiamo occupando tutti i giorni, soprattutto per il fronte interno, le regioni e i comuni che contestano, diciamo, l'entità dei tagli. Ma insomma, come vi sembra questa manovra, e anche in chiave prospettica per quello che voi vedete essere lo scenario economico in Italia nei prossimi mesi? Sì, guardi, intanto vorrei ricordare anche a tutti gli ascoltatori che l'Italia oggi ha un nostro rating a più con prospettiva stabile, questo è un rating che esiste già da alcuni anni e che è stato confermato recentemente. L'Italia è partita sicuramente, ha attraversato la crisi partendo da una posizione relativamente più debole degli altri paesi, soprattutto dato l'elevato indebitamento del settore pubblico, tuttavia questa situazione non è andata deteriorandosi, mentre si è andata deteriorando quella di molti altri paesi che infatti corso dell'ultimo anno e mezzo hanno subito degli abbassamenti di rating consistenti, e poi verremo anche al tema Grecia eccetera. Quindi diciamo che l'Italia ha mantenuto la sua posizione grazie alla tenuta del debito che si è stabilizzato e anche al forte impegno del governo, in particolare nell'ultima manovra, a mantenere sotto controllo la spesa primaria. La spesa primaria era uno di quei fattori che nel passato aveva un po' rappresentato anche un elemento importante nei precedenti abbassamenti di rating. Quindi noi vediamo la prevista attuazione a partire dal 2010 di questo programma di consolidamento di riduzione della spesa pubblica come un fattore di supporto del rating attuale, ripeto, a più stabile. Qualora invece ci fossero delle deviazioni da questo programma, ci potrebbero essere pressioni al ribasso. Però il programma va nella direzione di dimostrare un impegno del governo ad affrontare il costante aumento della spesa primaria, a mantenerla sotto controllo e quindi anche a portare il debito in una direzione di stabilizzazione se non di diminuzione. Le nostre stime sull'Italia sono in linea con quelle del governo, stimiamo un rapporto debito PIL del 119%, purtroppo la domanda ha subito un grosso, ma l'interna continua ad essere molto debole, le esportazioni hanno subito notevole riduzione nel 2009, il 2010 vediamo forse qualche segno di ripresa, però certamente le prospettive di crescita non sono incoraggianti, rimangono prospettive di crescita molto limitate, di cui l'Italia peraltro ha già sofferto in passato. C'è da dire tuttavia che l'Italia rispetto ad altri paesi ha anche alcuni punti di forza che hanno mantenuto questo livello di rating. Da un lato un basso livello di indebitamento del settore pubblico rispetto a paesi quali l'Irlanda, l'Inghilterra, la Spagna, che hanno un alto indebitamento del settore privato. E inoltre un'economia diversificata è comunque importante nel ruolo che ha nell'esportazione, che è anche uno di quei settori che può riprendere con la ripresa dell'economia mondiale. Sì, lei intendeva basso indebitamento del settore privato. Privato, sarebbe interessante sapere. No, privato. Il nostro debito è improvvisamente basso, detto da voi. Settore privato in Italia. Sto scherzando, no, ci mancherebbe. Però allora. Quindi se ho ben capito, per riassumere, il voto all'Italia è rimasto un voto stabile, un voto che noi avevamo a più anche prima e non l'avete modificato in peggio, a differenza di quanto è successo ad altri paesi, Spagna, Grecia, Portogallo, anche Gran Bretagna, perché l'Italia partiva male avendo un alto debito ma non è peggiorata, mentre c'erano paesi che partivano meglio dell'Italia ma sono nettamente peggiorati quanto a finanze pubbliche e quelli citati su tutti, per cui alla fin fine quasi per raffronto noi, stando già male ma non diventando peggio, abbiamo quasi migliorato la nostra posizione. In realtà poi voi dite la manovra se servirà a mantenere questo voto, cioè va nella direzione di ridurre, tenere sotto controllo il debito, e ecco perché insomma avete la prospettiva stabile sul voto all'Italia. L'Italia ha il vantaggio, se ho ben capito, di avere un basso indebitamento privato, ne abbiamo molti risparmi, e di poter esportare, certo che insomma la crescita sia sul fronte dei consumi che su quello che si vede all'estero c'è, ma è ancora molto molto debole. E restiamo sul tema a questo punto del ruolo di queste agenzie. Le polemiche si sono un po' placate, però ricordiamo tutti che cosa è successo tra marzo e aprile e anche le accuse che sono arrivate alle agenzie di rating. Sarkozy, Angela Merkel, ma anche molti politici italiani, esponenti del governo, le hanno criticate pesantemente. Le agenzie di rating in sostanza hanno agevolato la speculazione abbassando all'improvviso i voti, come nel caso di Standard & Poor's sulla Grecia, addirittura di tre scalini. Ma com'è possibile che si sveglino adesso? Polemiche molto forti sul conflitto di interessi. In realtà in questo modo c'è chi può avere le informazioni prima e speculare sul mercato, visti anche gli azionisti delle agenzie di rating, fino diciamo alla proposta, come risposta, come quasi controattacco dell'Europa, di arrivare alla creazione di un'agenzia di rating europea, che tra l'altro è stata appoggiata dallo stesso presidente dell'Eurogruppo, Jean-Claude Juncker, che ha detto: io sono favorevole, in base alle esperienze maturate con la crisi avrebbe senso mettere in piedi un'agenzia che possa valutare i debiti pubblici, ma un'agenzia europea, in modo da non essere sempre legati a queste agenzie che, essendo tutte americane, poi questa era l'accusa, seguono più gli interessi della finanza americana che non della reale osservazione dell'economia europea. Allora, dottoressa Pierdicchi, che cosa, immagino lei abbia delle risposte ben precise, risponde al ruolo che avete svolto? È sembrato, tra virgolette, fuori luogo il tempo, abbassare di 3 gradini improvvisamente la Grecia e poi subito il giorno stesso anche il Portogallo e la Spagna, alimentare, mettere benzina sul fuoco della speculazione. Ma guardi, io vorrei innanzitutto ricordare che il nostro lavoro è fornire opinioni sul merito di credito e ci rendiamo conto in maniera indipendente, non siamo nel mercato dei capitali, siamo solo il nostro lavoro, il nostro dovere è dare informazioni e opinioni agli investitori. Ci rendiamo conto che spesso le nostre decisioni non sono gradite agli emittenti, alle autorità governative, ma quando le nostre opinioni cambiano per il sopravvenire di fattori che portano a una modifica delle opinioni, è il nostro dovere darle al mercato senza né paura né atteggiamenti di favore. Allora, sulla Grecia bisogna ricordare che non è vero che tutto è cambiato solo in aprile. Noi abbiamo iniziato, Standard & Poor's ha iniziato a abbassare la Grecia nel 2004. In quel momento, tra l'altro, e per molti anni, il mercato ha continuato a apprezzare la Grecia come se fosse una tripla A, cosa che non è mai stata, perché è stata per lungo tempo una singola A. Dopodiché abbiamo avuto degli altri abbassamenti. Nel caso di aprile noi abbiamo abbassato la Grecia a livello non investment grade perché abbiamo ritenuto che effettivamente le prospettive di crescita, cioè di forte deflazione a medio termine, non fossero più compatibili con un rating non investment grade, e quindi abbiamo incorporato le nostre revisioni a lungo termine, quindi non solo di quello che avverrà nei prossimi mesi, che abbiamo peraltro incorporato. Non è corretto dire che noi non abbiamo incorporato il piano di salvataggio, noi abbiamo assolutamente tenuto conto di quello, abbiamo detto che quel piano risolve i problemi di liquidità ma non risolve i problemi di solvibilità, cioè di una ripresa della crescita che noi non ci attendiamo fino al 2017 per la Grecia, sì, no, non risolve i problemi a 3-5 anni. Però mi sembra che l'accusa che vi sia arrivata, oltre al timing, al tempo, al modo in cui tutto è all'improvviso, è stata anche questa, cioè non avete visto casi clamorosi, Lehman Brothers, Parmalat, citano molti ascoltatori qui al 349-238-6666, e però quando già il mercato ha iniziato a abbattersi, cioè a scommettere contro l'euro e a abbassare i valori di borsa, delle borse europee, a scommettere che l'Europa non ce l'avrebbe fatta a restare assieme, siete arrivati voi a dare il colpo di grazia finale. Su questo io dico una cosa anche a chi scrive: il valore d'affari, il giro d'affari delle tre agenzie di rating l'anno scorso è stato di 5 miliardi di dollari, non poca roba. Voi, visto che parliamo con Standard & Poor's oggi, avete diversi azionisti di diverso genere, tra cui però ci sono anche la BlackRock Institutional Trust Company, e il vostro azionista di riferimento è McGraw-Hill, che a sua volta ha dentro alcuni fondi e società finanziarie. Che cosa risponde a chi dice: siete intervenuti a dare la mazzata finale aiutando gli speculatori da un lato, e dall'altro attenzione perché anche voi non siete completamente puri, dentro il vostro azionista ci sono dei fondi, ci sono persone che possono avere un interesse nel sapere prima o scommettere come gli fa comodo su quello che è la debolezza europea? Ma guardi, io rispondo che noi siamo molto consapevoli delle nostre responsabilità, della nostra indipendenza, la prendiamo estremamente seriamente, quindi è nostro dovere aggiornare le nostre azioni ogni qualvolta riteniamo che debbano incorporare delle nuove informazioni per gli investitori. Ripeto, la Grecia non è stato un fulmine a ciel sereno, da anni noi andavamo dicendo che la Grecia aveva un sentiero di deterioramento e già da mesi avevamo messo una sotto osservazione la Grecia per per un notevole abbassamento. È chiaro che queste decisioni non sono gradite a chi deve gestire le problematiche, in questo caso anche i governi, e questo però, se mi permette, anche il segno della nostra indipendenza, del fatto che noi abbiamo il dovere nei confronti degli investitori. Poi gli investitori potranno aderire o non aderire alle nostre opinioni. Alcuni investitori oggi sono molto più negativi di noi della Grecia. Noi non ci attendiamo, ad esempio, un'insolvenza della Grecia, se non una per una probabilità piuttosto bassa, pur essendo oggi un rating speculativo. Altri investitori sono molto più negativi. Se guardiamo altri indicatori di mercato, alcuni investitori si aspettano un andamento peggiore. Altre agenzie di rating hanno altre visioni. Cioè, io credo che bisogna dare al mercato delle opinioni trasparenti, ben motivate, ben spiegate, e le nostre previsioni economiche sulla Grecia, così come sugli altri paesi, sono chiare e ben articolate. Evidentemente si può concordare o non concordare, ci rendiamo conto che a volte non sono gradite, però dobbiamo anche mantenere con fermezza la nostra posizione, il nostro dovere nei confronti degli investitori. Le posso assicurare che gli investitori su questo stanno dato anche delle indicazioni, sicuramente di alcuni concordano con le nostre opinioni. Quindi io vorrei un po' riportare il tema su quello che il rating è, cioè è un'opinione sul merito di credito, è data in maniera indipendente, tutto il processo analitico è comunque condotto secondo delle procedure, dei metodi assolutamente trasparenti, che sono supervisionati già dalla Security Exchange Commission, che saranno supervisionati dalla nuova regolamentazione europea, con cui concordiamo totalmente, se questo può dare più fiducia agli investitori, ma vorremmo anche essere giudicati per la performance dei nostri rating e per quello che essi esprimono, ecco, agli investitori. Siamo veramente in chiusura, ma in una battuta, quindi secondo lei, insomma, i vostri azionisti non mettono becco? Guardi, noi siamo una società quotata a New York con una governance molto trasparente, uguale a quella di tutte le società quotate negli Stati Uniti. Le assicuro che il processo analitico assolutamente non entra nelle decisioni, quindi, di alcun organo societario, non entra neanche nelle decisioni di tutti coloro che diciamo gestiscono il lavoro commerciale. C'è una separazione netta, su questo noi siamo fortemente impegnati con massima trasparenza a rispondere della nostra indipendenza e di come noi presidiamo i conflitti di interesse. Evidentemente, voglio dire, la regolamentazione deve dare più fiducia al mercato in questo senso, ma noi siamo anche molto, molto d'accordo. Sì, ma quindi pressioni mai ricevute? Ha ricevuto, insomma, più pressioni dai suoi azionisti o dai politici? Una battuta, una delle due. No, guardi, noi non riceviamo pressioni da nessuno. Siamo indipendenti e intendiamo dimostrare la nostra indipendenza e farci misurare dagli investitori, sia attraverso il fatto che loro ci continuino a utilizzare per il valore che noi forniamo, non per la regolamentazione, sia anche in base ai dati, alle statistiche che ogni anno presentiamo su come i nostri rating sono dei buoni predittori di insolvenza. Le nostre statistiche di quest'anno lo confermano, che in media i nostri rating sono in linea con le insolvenze che si verificano per, ovviamente, gli emittenti e i titoli che noi ratiamo. Beh, insomma, almeno voi, diciamo, non ricevete pressioni, non si può dire altrettanto della categoria a cui appartengo, che invece quanto a pressioni politiche ed economiche ne sa qualcosa. Grazie e buon fine settimana a Maria Predicchi, che è amministratore delegato di Standard & Poor's Italia. Grazie a lei, arrivederci. Ed è tutto per questa settimana, ma non resta, come sempre, che ringraziare Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, augurare a voi tutti un buon fine settimana, chi se lo può permettere. Noi ci risentiamo, come sempre, lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.